Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Partiamo di prima mattina da Tripoli. Io e un collega emiliano. Il volo era piuttosto lungo ed eravamo i soli europei. Due chiacchiere, una sigaretta. A quei tempi si poteva ancora fumare a bordo. E il tempo passa. Penso a casa, alla nuova avventura che sarebbe cominciata di lì a poco e ai problemi da risolvere che avrei trovato in cantiere. Ciao, mi chiamo Fabrizio, sono di Viareggio. Ho compiuto proprio ieri 57 anni. Lavoro nel campo dell'impiantistica industriale. Sono stato moltissimi anni in giro per il mondo a montare impianti industriali e adesso sono tornato finalmente a Viareggio e faccio il libero professionista. I vari proverbi, tra i tantissimi proverbi che ci sono in Italia, direi proprio nazionali e non tanto quelli regionali, tra i vari proverbi e i modi di dire ce ne sono alcuni che si usano proprio molto molto di frequente. Me ne vengono in mente, che so io, come andare in bicicletta, no? Una volta che hai imparato te lo ricordi per sempre anche se non ci vai per anni. Questo è uno. E invece un altro è che quando cadi da cavallo devi risalirci subito, altrimenti non ci sali più. Oggi parliamo di questo. La storia di Fabrizio, anche se non è ambientata in un centro di equitazione e non si parla di cavalli, comunque ha a che fare con quella sensazione lì che provi quando ti succede una cosa che è di per sé traumatica, cioè ti trovi per terra e devi ritornare immediatamente da dove sei caduto, perché altrimenti, si dice così, insomma, vorrebbe la tradizione, si dice che se non ci risali subito su quel cavallo, se non ti ritrovi subito in quella situazione, se non riprovi a fare quella cosa, non ci salirai mai più. 349 238 6666, oppure voi siete qui Radio 24 il profilo Facebook, oppure voi siete qui R24 il profilo Twitter. Sono le 16:09 minuti di un lunedì 20 di gennaio del 2014. Io sono Matteo Caccia, questa è Radio 24. Voi siete qui, è il programma che state ad ascoltare. È un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia, raccontiamo un episodio della vostra vita. Se avete voglia di condividerlo, scrivete a voisietequi@radio24.it. Se avete voglia di ascoltarlo, state lì, o altrimenti scaricatevi i podcast. Dal momento che ci sono oltre 100 storie, quest'anno siamo già a 100 più o meno, sì, abbiamo cominciato a settembre. Solo quest'anno. Mandati in onda sono più di 100, quindi solo di quest'anno ci sono 100 storie, dello scorso ce ne sono 215, di quello prima ce ne sono altre 215, ci sono degli ebook. Se avete voglia, insomma, di immergervi nelle storie di persone che come voi vivono la vita e gli succedono delle cose e come voi quindi hanno voglia di raccontarle, scaricatevi i podcast, scaricatevi gli ebook oppure ascoltatevi la diretta di questo programma. Prima di raccontare la storia di Fabrizio, noi oggi facciamo una cosa che abitualmente non facciamo mai e che però abbiamo scoperto funzionare. Parliamo di lanciare un tema. Chi conosce questo programma sa che noi non chiediamo racconti a tema, chiediamo semplicemente un episodio che racconti qualcosa di te, che si tratti dell'infanzia, d'amore, di lavoro, d'amicizia, di viaggio. Però proprio di viaggio l'abbiamo chiesto un mesetto fa e sono arrivati un sacco di messaggi. Oggi vorremmo fare questo gioco ma con un altro tema. Il tema è quello dell'alimentazione. Attenzione però, non vi chiediamo una ricetta. Non ci interessa come si fa un piatto particolare, non siamo voi siete qui Masterchef 2.0. No, noi vogliamo sempre delle storie, cioè episodi accaduti mentre cucinavate un piatto, ad esempio, oppure se siete dei cuochi, come siete diventati dei cuochi, o ancora se da ragazzini raccoglievate pomodori e poi ci facevate la salsa. Una storia che abbia a che fare col cibo, con l'alimentazione, con le ricette e con quello che sta intorno a tutto ciò che mettiamo in bocca e ci mangiamo. Voi siete qui @radio24.it. La regola è sempre quella: una pagina, massimo due, sia un episodio, ripeto, quindi che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Ma se avete voglia di raccontare qualcosa che ha a che fare con il cibo e l'alimentazione, che vi riguarda da vicino, che vi è successo nella vostra vita e che, ripeto, è una storia, venite a partecipare a Voi siete qui. Torniamo alla storia di oggi, è la storia di Fabrizio, parla di cadere da cavallo e risalire, metaforicamente e non, ad esempio, come ci scrive dov'è Alessandro. Ho rischiato di morire in mare, subito dopo ho fatto un corso di sub open dive. Non è stata la stessa cosa con le cadute da cavallo, ma per me, grazie al corso, è stato simile, perché mi sono rialzato. 349 238 6666. Questa qui è la storia di Fabrizio. Quando oggi, leggendo giornali o guardando servizi alla televisione, leggo e vedo offerte di tour in Libia, non posso fare a meno di pensare a quando, con l'azienda Montubi, la Libia era un posto di lavoro e sicuramente noi non la vivevamo da turisti. Però mettendo a fuoco quello che stava intorno a noi, oltre al lavoro, vivevamo in un ambiente incredibilmente bello, incontaminato. Il mare limpido e pulito, dove quando ti immergevi le cernie venivano a baciarti la maschera senza avere nessuna paura. Il deserto rosso, giallo ocra. La sera bastava allontanarsi un po' dalle luci del campo, stendersi sul cofano della campagnola e la volta celeste ti avvolgeva con tutta la sua immensità. Per raggiungere i campi nel deserto, dove poi solitamente rimanevamo 3 mesi e 20 giorni, utilizzavamo i domestic flight della Libyan Airline, che altro non erano che un turboelica Fokker F-27. Aerei molto sicuri, turboelica appunto, olandesi, efficienza molto alta, che per un fresco perito aeronautico, quale ero io, significava grande tranquillità. Nel maggio del 1980 prendo un Fokker F-27 che da Tripoli doveva portarmi nel deserto di Hamada El Amra. Io lavoravo per una grossa società di piattistica industriale e praticamente noi eravamo tecnici che andavano sulla base delle necessità sui vari progetti a prestare la loro opera appunto in giro per il mondo. Per dire, quel cantiere lì dura, io su quel cantiere ci sono stato 1 anno e mezzo circa, insomma, no, però poi ne ho fatti altri di lavori. Era un viaggio importante perché al rientro da quel turno di lavoro a settembre mi sarei sposato. Partiamo di prima mattina da Tripoli, io e Ghisoni, un collega emiliano. Il volo era piuttosto lungo ed eravamo i soli europei. 2 chiacchiere, 1 sigaretta. A quei tempi si poteva ancora fumare a bordo. E il tempo passa. Penso a casa, alla nuova avventura che sarebbe cominciata da lì a poco, ai problemi da risolvere che avrei trovato in cantiere. Guardo in basso e vedo passare sotto di me l'altopiano di Big Jebel. Ancora un paio d'ore di volo e saremmo arrivati. Mi rimetto a dormicchiare cullato dal rumore costante dei turboelica del Fokker. Dopo un po' mi risveglio e guardando in basso vedo nuovamente il Jebel. L'aereo sta girando in tondo. Sveglio Ghisoni quando il personale di cabina insieme al secondo pilota aprono la botola interna al centro dell'aereo. Capisco subito cosa stava succedendo. Il carrello dell'aereo non usciva. La cosa non era simpatica. Mi è venuto subito in mente l'ultimo assegno dato al costruttore per la casa, quasi pronta, i preparativi per il matrimonio, e pensavo a come sarebbe stato atterrare con la pancia dell'aereo su un letto di schiuma. Il pilota ci avvisa che torneremo a Tripoli e tenteremo un atterraggio d'emergenza. Io e il mio collega ci accendiamo una sigaretta e ci guardiamo intorno. Passa lo steward, di getto gli chiedo «Sorry, what happens?» E la risposta fu «Nothing, only technical problem». Sopra Tripoli il carrello continua a non uscire, il pilota comincia a fare cabrate e planate in successione. I miei ricordi di perito aeronautico mi dicevano che quelle manovre erano per far uscire tramite depressione il carrello. Intorno a noi, pakistani più fatalisti di noi ridevano e urlavano ad ogni cabrata e successiva picchiata, come se fossero sull'ottovolante. Io e Ghisoni invece ci reggevamo ai seggiolini, stringevamo le cinture e sgranavamo gli occhi dalla tensione. Tripoli era sotto di noi. Si vedevano le piste, ma nessuna cosparsa di schiuma. Poi, finalmente, una forte botta e il carrello è uscito. Ghisoni, francamente, l'ho perso di vista. Su Facebook ho creato un gruppo, appunto, di quelli delle scimmie Montubi, però lui non l'abbiamo ancora trovato. L'abbiamo recuperati tanti, ma Ghisoni non l'abbiamo trovato. Dopo l'atterraggio, il pilota pakistano ci fa scendere, chiama la manutenzione e comincia ad inveire contro di loro. Dopo un po' di discussioni, gli addetti alla manutenzione si avvicinano al carrello dell'aereo con un ingrassatore. Danno un po' di pompate di grasso qua e là e dopo un altro scambio di battute con il personale, il pilota ci fa cenno con la mano di rimontare a bordo, che si riparte. Io e Ghisoni ci siamo guardati in faccia e gli ho detto «O saliamo ora, o su un aereo, io e te non ci montiamo più». E così siamo rimontati. Nel deserto all'atterraggio soffiava un forte vento e il pilota è stato bravo. Gli abbiamo battuto le mani per scaricare la tensione e poi siamo scesi. Dopo questa esperienza ho continuato a volare, ma non con la stessa rilassatezza di prima, specie nei voli lunghi. Falls to the ground at the feet of the old fai subito. Se non rimonti subito a cavallo dopo la caduta, 9 su 10 non ci sali più. Ne sa qualcosa Giulia, la compagna di Mauro, il mio amico Mauro. Giulia ha imparato a sciare da bambina. Passava le vacanze di Natale a Bardonecchia. Come tutti i bambini che salgono presto sugli sci, era una scheggia. Durante le vacanze di Natale, solo una grande motivazione può spingere dei bambini a svegliarsi presto. E Giulia tutte le mattine si svegliava alle 7:30 per essere alla seggiovia all'apertura al pubblico per evitare la coda. La seggiovia a Melezze alle 8 di mattina aveva la seduta ghiacciata, ma Giulia e i suoi cugini non sentivano il freddo. Loro volevano raggiungere le piste il più in fretta possibile. Mangiava il panino che le preparava la nonna sullo ski lift per non sprecare tempo e tutte le mattine commentava la qualità della neve. L'unica pausa prevista durante la giornata era un quarto d'ora al bar pasticceria per andare in bagno e mangiarsi il crafen alla marmellata. Tutti i pomeriggi scendeva che era buio. Tutti gli inverni per Giulia passavano identici. Ma a 13 anni, una mattina, aveva voluto provare a tutti i costi gli sci di sua sorella, più lunghi dei suoi. Diceva che i suoi erano troppo lenti, ma il motivo vero era che erano più alla moda, quelli di sua sorella. Mentre si preparava per scendere dalla seggiovia, ha alzato in anticipo la barra di protezione. Qualcuno le ha urlato di stare attenta, Giulia si è distratta, si è sporta in anticipo, è inciampata negli sci, che erano alla moda, ma erano anche troppo lunghi, ed è caduta. È atterrata nella rete di protezione, per fortuna, perché sotto la rete c'era un salto di parecchi metri. Gli addetti alle piste non erano pronti ad affrontare un'emergenza. Quelle reti si mettono di routine, ma non capita quasi mai che servano per davvero. Allo shock del volo si è aggiunta anche la fatica del recupero. Uscire dalla rete con gli sci ai piedi dopo quello spavento è stato ancora più spaventoso. Ecco, da quel momento Giulia ha rinunciato a sciare. Basta mettere la sveglia presto, basta panino sullo ski lift, basta crafen in pasticceria. Da allora non ha più nemmeno messo piede a Bardonecchia. Io e Giulia l'ho conosciuta molti anni dopo, quando si è fidanzata con Mauro, appunto. Da quando non avevamo nemmeno la patente, tutti gli inverni, io e lui passavamo qualche giorno assieme sulle piste. E così è successo che poco dopo che si erano messi assieme, è venuta anche lei. È stato quando ha visto la seggiovia, quando ha realizzato di doverci salire, che si è paralizzata. Ma si conoscevano da poche settimane, eravamo in tanti, eravamo tutti pronti per sciare ed era troppo tardi per tornare indietro. Quindi si è aggrappata al braccio di Mauro, gli ha infilato le unghie nella carne ed è salita. Da quella volta si è sbloccata e adesso ride dei 25 anni passati con la fobia delle seggiovie. Qualcuno risale a cavallo perché non può farne a meno, qualcuno perché non vuole rinunciare a delle possibilità. Qualcuno ci risale perché si trova in una situazione che sarebbe più complicato non farlo. Per tutti, se viene concessa una seconda possibilità, è un peccato rinunciare a giocarsela per paura. E anche se qualche volta servono 25 anni per provarci, ne vale sempre la pena. What to drink, I was so started. giovanissimo Fabrizio nella fotografia che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, alla nostra pagina Radio 24, Voi Siete Qui. È proprio una di quelle fotografie in cui si vedono quanti anni sono passati da quando è scattata, non solo perché lui è un ragazzino e adesso mi pare abbia detto 57 anni compiuti qualche giorno fa, ma perché il colore della pasta è completamente diverso dalle foto di oggi, a meno che non abbiate Instagram e quindi non le camuffiate in qualche modo, e soprattutto perché è appoggiata a una macchina dove c'è un adesivo cosiddetto condotto e strade, e la macchina credo che sia una Dian. Pronto Fabrizio? Ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie, bene. È una Dian quella? Ci hai indovinata. Ok. Allora lì non siamo in Libia, siamo in Iran, e quella lì è una Dian che venivano costruite però in Iran e si chiamavano Jane. In Iran la chiamavano Jane? Jane, sì, però era una, a tutti gli effetti una Dian. Sì, e sì, che cos'è quell'adesivo condotto e strade? Condotto e strade è la prima società con cui ho lavorato, perché lì non siamo nell'80, siamo nel 77, e nel 77 ero in Iran con questa società che si chiamava Condotto e Strade. Tu come hai cominciato a fare questi lavori in giro per il mondo, Fabrizio? Una cosa semplicissima, cosa che oggi si fa tramite internet, una volta si faceva sulle inserzioni del venerdì del Corriere della Sera. Ah, semplicemente hai risposto? Semplicemente rispondendo a un'inserzione, c'era questa società, appunto la Condotte Strade, che cercava tecnici, giovani diplomati per cantieri all'estero, e ho sempre avuto un po' la fissa del viaggio, sai, la fissa del viaggio, e niente, ho risposto a questa inserzione, ho fatto un colloquio a Parma, la Condotte Strade era di Parma, e praticamente in 20 giorni mi sono trovato catapultato in un altro mondo. In Iran. Bandar Abbas, Iran, 98% di umidità, 40 gradi all'ombra, roba da pazzi. Dici un po' a quanti posti sei stato, già ci hai detto Iran e Libia. Ma diciamo che io ho fatto tutto il bacino del Nord Africa, tutto il bacino del Nord Africa l'ho fatto praticamente tutto, quindi tutto il Maghreb sostanzialmente. Tutto il Maghreb, cioè la Libia, Egitto, Tunisia, Marocco, eccetera. Poi sono stato appunto in Iran, sono stato in Nigeria, nel 78 ero in Nigeria. E adesso sei ritornato? Ho fatto la Russia, sì. Sì, ormai sono diversi, parecchi anni, poi sai, c'è una questione di qualità della vita, no? Certo, anche perché adesso immagino tu abbia una famiglia. Il mondo è completamente, sì, quella persona con cui mi sono sposato il settembre dopo quel volo è sempre qua. È sempre tua moglie. Ma tu cosa fai adesso, Fabrizio, esattamente? Io faccio il libero professionista, mi occupo di sono un safety engineer, un HSE, di sicurezza sul lavoro fondamentalmente, e in più sono socio di una società che si occupa di energie alternative, e quindi lavoriamo un po' nel campo del fotovoltaico, del risparmio energetico. Chiaro, in generale. Sei in ufficio in questo momento, quindi? No, in questo momento sono a casa, ti devo dire. Ti sei preso mezza giornata? Mi sono preso mezza giornata, una delle cose belle dei professionisti, no? Certo che puoi prenderti. Sono tanto professionisti e poco liberi, ma insomma. Ma noi vorremmo veramente sapere tutto del Ghisoni, però, Fabrizio, perché ormai è diventato. Tu e lui che vi accendete la sigaretta nel momento in cui sta per cadere l'aereo. È un'immagine bella. Che facciamo? Niente, non esce il carrello, scendiamoci la sigaretta. Dai, sizza. Ci guardavamo in faccia, non sapevamo più veramente cosa fare. Quando mi sono svegliato e ho rivisto il Jebel, che praticamente il Jebel taglia da est a ovest, no? Questo altopiano taglia da est a ovest la Libia, il Jebel è dove Balbo andava a caccia, insomma, no? Quando ho rivisto, dico: Marianna, siamo tornati indietro, ho detto: ahi, c'è qualcosa che non funziona, Ghisoni lo sveglio. E lui fa: era emiliano, adesso non so parlare emiliano, non so. Vabbè, comunque dice: Madonna, dice: vediamo, però da quel punto lì poi non ha più parlato. Senti, dimmi invece del gruppo, il gruppo su Facebook che hai creato, poi ti devo salutare purtroppo, Fabrizio, della Montubi, no? Della Condotte Strade. Il gruppo si chiama Quelli della Montubi, che sono diventati Cimi Montubi, perché poi ci siamo fusi con un'altra società. Okay. Fusi con un'altra società. Va bene, adesso andrò a cercare. Ne stanno venendo fuori tanti. andrò a cercare il gruppo Quelli della Montubi. Fabrizio, grazie ancora, in bocca al lupo. Ciao Matteo, ciao, ciao, buona giornata, ciao, ciao, grazie, ciao. Mi scrivono a proposito di cadere dal cavallo o scendere da un aereo a cui non si è aperto il carrello e risalirci subito. Dopo un grave incidente durante una gara di motocross a 18 anni, sono risalito solo a 31. Ma non è più lo stesso, te credo. 349-238-6666. Stiamo per chiudere, stiamo per dare il microfono ad Oscar Giannino. Vi ricordo però che abbiamo iniziato una nuova raccolta di racconti. Voi continuate a mandare i racconti che volete mandare, che riguardano la vostra vita, che non hanno un tema. Se però ne avete uno particolare che è riferito all'alimentazione, al cibo, alle ricette, in cui c'è una storia legata alla volta in cui avete imparato una ricetta particolare, la volta in cui vi siete innamorati di qualcuno mangiando un piatto, la volta in cui avete deciso che facevate una dieta e poi banalmente non l'avete fatta, qualunque storia legata all'alimentazione, fate un bel file, lo mandate a voisietequi@radio24.it e noi più avanti ci faremo una storia. Scusami, mi dicono, dimmelo perché non c'ho il tweet aperto. C'è un tweet della figlia di Fabrizio. Aspetta che lo vado a recuperare, non ce la farò mai perché non l'ho aperto, ma me lo mette, ma non ce la farò. No, ce la faccio, state lì un secondo. Dai, state lì. Aspetta un secondo. Aspetta che trovo il tweet della figlia di Fabrizio. Torniamo domani, no? Forse è il tweet più lungo. Eccola qua. No, non è lei, non è possibile. Eccola qua, aspettate. Niente, andate su Twitter, ragazzi, non ce la faccio più. Profilo Twitter, voi siete qui R24. A domani, grazie a Paulino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina, Mauro Pescio. Grazie a Fabrizio, la storia di oggi era la sua. E anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Marco D'Asti. La storia di domani è la mia. Riguarda l'inizio di un cammino e le circostanze che in pochi secondi possono definire la direzione della tua vita. Questa è la mia storia e io sono qui.